1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui, sono le 7:18 minuti, cari ascoltatori, siamo pronti, siamo qui e vi ricordiamo che oggi alle 8:15 parleremo di abusivismo edilizio, ma lo sapete che ci sono 500.000 case, qualcuno dice, abusive in Italia? Torniamo su un tema che abbiamo già affrontato in passato perché davvero vi vogliamo dare dei dati interessanti. Questo dalle 8:15 avremo anche, che cosa? Torneremo a raccontare la vita all'estero di alcuni italiani che ci ascoltano, pensate, dall'estero. Abbiamo iniziato questa iniziativa, ci state scrivendo da tutto il mondo. E scriveteci, 24 mattino e radio24.it. Ogni giorno uno di voi o una di voi vi chiameremo. Se ci ascoltate, siamo partiti dalle Seychelles, siamo andati in Africa, siamo andati in Siberia, siamo andati negli Stati Uniti, vi abbiamo scovato e ci ascoltate da ovunque. Ora intanto andiamo a leggere i giornali che trovate in edicola. È martedì 9 dicembre e i titoli intanto sono questi. Il Sole 24 Ore apre sui BTP, passano il test del rating, e anche l'Eurogruppo, cioè i 18 ministri dell'Unione Europea, ministri delle Finanze, che chiedono misure efficaci, più efficaci nei confronti dell'Italia, da parte dell'Italia nei confronti della crescita. La mossa del governo sul deficit, questo è il titolo di apertura del Corriere della Sera. L'ipotesi è questa: se la recessione continua, taglio delle tasse, investimenti e sfondamento del 3%. Questa è l'ipotesi in prima pagina del Corriere della Sera. Per Repubblica, l'Italia all'Unione Europea non servono altre manovre. La risposta del ministro Padoan ai richiami dell'Unione Europea. La Stampa però esplicita: nel 2015 mancano 6 miliardi. Questo l'allarme di Bruxelles. Avete capito, cari spilorci? Mettete mano alle tasche. Vabbè, la vicenda Roma. Renzi: non lascio Roma ai ladri. Questo è il titolo di apertura del Messaggero, mentre Libero titola così: Marino come Scaiola. L'ex ministro si dimise per la casa a sua insaputa e il sindaco a sua insaputa si è fatto finanziare la campagna elettorale dal boss di Mafia Capitale. Il giornale: il boss pagava gli show delle femministe chic, il re delle cop sponsor delle serate di Dandini, Camusso e company, e la Boldrini applaudiva in platea. Per il Fatto Quotidiano invece: Mafia Capitale, la banda ha inquinato i risultati elettorali delle regionali del 2013. Questa è l'accusa in prima pagina del Fatto. Mentre Avvenire: Ebola, l'altra strage. Questo è il titolo di prima pagina. Io però vorrei partire dalla cronaca nera. Avete sentito, c'è stata probabilmente la svolta per gli inquirenti, la svolta decisiva nella notte dopo che è stata fermata la madre di Loris, stiamo parlando del bambino di Santa Croce Camerina. Tutti i giornali raccontano quella che è la svolta che secondo gli inquirenti dovrebbe portare ormai alla accusa nei confronti della madre dell'omicidio del figlio. Questo è lo scenario che secondo la procura di Ragusa si è verificato, e cioè la madre che ha agito probabilmente da sola, uccidendo, strangolando il figlio e poi occultandone il cadavere. Ovviamente la madre invece dice di averlo portato a scuola, insiste, si difende. Tutti i giornali però raccontano, alcuni mettono a pagina 2-3 la cronaca di questo lungo interrogatorio che ha portato poi all'incriminazione della madre. Ha ucciso Loris, i PM la fermano. Sentita per quasi 6 ore, non ha confessato, ma è accusata di omicidio aggravato. Avrebbe agito da sola. È stata isolata anche un'immagine della sua auto mentre imbocca la strada che porta al canneto in cui fu gettato al corpo vicino al mulino. Tra l'altro ora escono articoli che dipingono anche la vita difficile di questa signora, Veronica Panarello. L'articolo forse più completo è di Alessandra Ziniti, a pagina 4 di Repubblica. Il titolo è «La resistenza a oltranza davanti alle accuse? Sì, sono stata infelice, ma non è una prova». Questo ha detto agli inquirenti: «È vero, ho avuto un'infanzia, un'adolescenza infelice, allora... E allora eccola quella che, secondo i PM della Procura di Ragusa, è la mamma assassina di Santa Croce Camerina. Dicono ora gli investigatori, era riuscita a trarre in inganno anche noi con quelle urla così disperate sin da quando cercavamo il bambino, vivo, credendo che avesse marinato la scuola. Forse la chiave di volta è nel suo passato, nella solitudine, nella depressione di questa giovane mamma che da sola è anche adesso nella notte, in cui perfino davanti alla procura di Ragusa ci sono famiglie con bambini che attendono di vederla uscire. Veronica, che si è sempre sentita rifiutata dalla madre, Carmela, che le ha detto di non averla mai voluta, di essere il frutto di una gravidanza indesiderata nata da un rapporto con un uomo che non è il padre, che poi la riconosciuta. Veronica, che per l'ennesima relazione clandestina della madre, che ha avuto 5 figli da 3 uomini diversi, ha tentato di uccidersi a 14 anni stringendosi al collo un laccio e provando a impiccarsi. Veronica, che dalla solitudine e dalla mancanza d'affetto aveva provato a sfuggire con l'amore da ragazzini con Davide, una storia poi diventata la sua nuova prigione, anche questa come quella di mamma Carmela, culminata con una gravidanza indesiderata a soli 16 anni, quella appunto di Loris, e un matrimonio obbligato con un'altra vita solitaria, con un marito sempre fuori casa per il lavoro, e lei diventata adulta prima del tempo a occuparsi a tempo pieno di quei 2 bambini. Adesso sono in molti a dire che il suo rapporto con Loris, cioè il figlio, non era idilliaco, che spesso riversava con violenza su di lui tutte le sue frustrazioni. E violente, anzi violentissime, sono state sin dal primo momento di questa storia le reazioni di Veronica, che ha sempre urlato come un'ossessa tutta la sua disperazione, cadendo distesa per terra anche davanti agli investigatori dopo qualche non ricordo di troppo. Suo marito non l'ha mai chiamato, pensate, scrive Repubblica, non lo chiamò neanche per comunicargli quando trovarono il figlio morto. Non volevo farlo preoccupare, dice per assurdo ora questa donna agli investigatori. Sta di fatto che i profili suoi si sprecano, anche la reazione del padre, che pare abbia detto: se è stata lei, mi deve dire il perché, e poi per me può anche morire. Ovviamente tira un sospiro di sollievo. Chiaro, non c'è niente di definitivo, stiamo parlando delle ipotesi degli investigatori. Tira un sospiro di sollievo ovviamente il cacciatore Orazio Fidone, colui che ha trovato il corpo, che dice: cominciavo ad arrabbiarmi veramente per i sospetti su di me, ma ho sempre avuto fiducia negli inquirenti. Anche la stampa racconta invece il profilo della madre inquieta e sola, la mamma bambina schiacciata dai suoi incubi. Insomma, pare si sia arrivati a una svolta, questo almeno giura la procura, in attesa di capire se lei mai confesserà se è stata lei oppure manterrà questa linea innocentista. Voglio andare sulla prima pagina del Manifesto. Oggi il Manifesto mette in prima pagina Al Pacino, niente po' di meno che tiene in mano una copia del Manifesto per la campagna contro la chiusura, ovviamente per la salvezza del Manifesto. C'è un articolo di Norma Rangieri, direttore del Manifesto, in prima pagina, un'accusa molto dura a Renzi, e l'accusa è questa del Manifesto: il governo ha tagliato i rimborsi per l'editoria del 2013 già previsti nel bilancio dello Stato e degli editori, lo ha fatto tagliandoli anche per il pregresso, e quindi con un taglio retroattivo. E c'è il lancio dell'allarme in prima pagina del Messaggero, la ghigliottina di Renzi. Norma Rangieri scrive: vogliono soffocare il Manifesto in un momento fondamentale della nostra storia, l'acquisto della testata, vogliono insomma cancellare una voce. E scrive Norma Rangieri: non siamo così miopi da non vedere, stolti da non sapere che in fondo per l'editoria è stato in anni passati un pozzo di denaro dove attingere soldi, far nascere iniziative editoriali finte, di facciata, utilizzate per altri fini, per arricchire le tasche di faccendieri e imprenditori senza scrupoli. ma adesso si butta via il bambino con l'acqua sporca, con due immediate conseguenze: un forte appannamento del mondo dell'informazione e il licenziamento di centinaia di lavoratori del settore, tipografie, distribuzioni, cartiere, che andranno a ingrossare le già enormi percentuali della disoccupazione. Insomma, accusa il manifesto, Palazzo Chigi o torna sui suoi passi oppure dovrà spendere più soldi per fronteggiare il fallimento di decine di testate, il licenziamento di centinaia di lavoratori, insomma quello che il manifesto definisce un colpo alla democrazia. E anche il manifesto dice: rischiamo di scomparire. Vabbè, siamo al momento dell'articolo che ci fa tenere le mani sul volante. Oggi è un trafiletto, l'articolo che ci fa più incazzare di questa giornata lo troviamo sul Giornale, a pagina 10, dove si racconta l'iniziativa di Severino Galante, l'onorevole Rosso, che lotta per il vitalizio. Questo è il titolo: se toccate i vitalizi ci rivarremo sui vostri stipendi. Il deputato per 3 legislature, consigliere regionale per altre 2, Severino Galante, ha messo da parte perfino Robin Hood, scrive il Giornale, e la massima minimalista del rubare ricchi per dare ai poveri. In una lettera al Consiglio regionale del Veneto, il docente universitario di Padova ha intimato lo stop alla riforma dei vitalizi, incostituzionale e illegittima, ventilando in caso contrario azioni di rivalsa. Attualmente il professore intasca ogni mese 4.083 euro per gli anni di permanenza a Montecitorio ed altri 2.873, quindi cumulo dei vitalizi, più fa il docente universitario, immagino prenderà una pensione un domani, quindi 3 pensioni, e dice: passasse la revisione dovrebbe rinunciare a una quota fissa e patire un taglio tra il 5 e il 15%, poverino, un taglio del 5 o del 15% di 3 pensioni, poveretto! Ma signora, ma che fa? Metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia! Alessandro Milan, per un'informazione decisiva! È chiaro, è decisiva, l'80, visto che ieri non ero in onda, ma siamo in onda oggi praticamente parte l'84esima settimana decisiva per la riforma elettorale. No, anzi è partita ieri, non aboniamo un giorno, così come l'abolizione delle province. L'84esima settimana decisiva, ce la faremo, chi lo sa. Intanto l'Eurogruppo, i 18 ministri della finanza dell'Unione Europea, si allinea alla Commissione Europea nel valutare i bilanci previsionali per il 2015. Questa è la notizia economica di ieri. A proposito dell'Italia, i ministri delle finanze hanno preso atto delle diverse stime di deficit tra Roma e Bruxelles e si sono limitati a notare, come scrive Beda Romano sul Sole 24 Ore, a pagina 2, che misure efficaci potrebbero essere necessarie per raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica per l'anno prossimo. Quando si parla di misure efficaci che potrebbero essere necessarie, vuol dire, tradotto da Repubblica, mancano 6-7 miliardi. Cari italiani, come ho detto prima ironicamente, spilorci! Mettete mani alle tasche, che c'è bisogno di tirar fuori altri soldi. A meno, giura di no il ministro dell'economia Padoan. Dino Pesole, a pagina 2 sempre del Sole, Padoan dice: l'Unione Europea non ci sta chiedendo una manovra aggiuntiva, una manovra che quindi viene esclusa dal ministro. La richiesta dell'Eurogruppo al nostro paese di realizzare entro marzo misure effettive che si rendessero necessarie per accelerare il percorso delle riforme non equivale alla richiesta di una manovra correttiva, eventualità che fonti del Ministero dell'Economia negano risolutamente. Nessuna nuova manovra all'orizzonte. E però l'Europa dice: questi 6 o 7 miliardi andranno trovati. La Stampa lo mette addirittura in prima pagina: nel 2015 mancano 6 miliardi. Aggiustate i conti in primavera, ci dice l'Eurogruppo. A primavera. Ecco qui però quella che è, secondo Massimo Franco sul Corriere della Sera, la risposta strategica di Renzi. La tentazione di Renzi: sfondare il tetto del 3%. Questa potrebbe essere la risposta italiana. Scrive Massimo Franco, può darsi che la questione romana abbia influito davvero sui giudizi negativi delle agenzie finanziarie internazionali sull'Italia. La diffidenza rimane ed è però ora più ramificata, va oltre le inchieste giudiziarie, riguarda il timore europeo di una virata nella politica economica del governo Renzi da qui a marzo. Da settimane, spiega un esponente del governo, Palazzo Chigi sta analizzando una serie di misure da prendere se alla fine del prossimo trimestre ci fosse l'ennesimo segno meno davanti ai dati sul PIL. In quel caso la tentazione di Renzi è di sfondare il tetto del 3% senza aspettare una procedura di infrazione dell'Unione Europea. L'idea, infatti, che si sta accarezzando di fronte a uno scenario di recessione continua è quello di cambiare rotta, per esempio estendere il bonus degli 80 euro al mese a pensionati e lavoratori autonomi, impostare un piano triennale di investimenti sociali. La prima misura costerebbe 10 miliardi di euro, cioè gli 80 euro a pensionati e lavoratori autonomi. Il piano di interventi varrebbe fino ai 40-50 miliardi l'anno. Sono ovviamente scenari, non decisioni prese, progetti preparati in previsione di uno stallo ritenuto ormai insostenibile e col rischio di sforare così il 3%. Questa potrebbe essere la risposta dell'Italia? Ma stiamo a vedere. Certo, il governo, anche il Messaggero scrive, esclude la manovra per questi 6-7 miliardi che ballerebbero. Intanto ieri Renzi è tornato sul caso Roma. Roma è l'accusa di mafia capitale, le intercettazioni che continuano, oggi soprattutto si parla dello scenario dei rapporti con gli imprenditori, di rapporti di chi riciclava i soldi. Il Premier dice sul caso Roma, processi veloci, non lasceremo Roma ai ladri. E dice, è la bellezza, è la capitale, è una città che suscita emozioni. Che vi devo dire di Roma? Non sappiamo se il quadro è quello di tangentari alla matriciana o mafiosi capaci di relazioni pericolose. Non lasceremo però Roma in mano ai ladri. Tra l'altro per questa frase il sindaco di Amatrice si è arrabbiato. Ha detto smettetela di dire alla matriciana, associato in questo caso tangentare alla matriciana. Il comune si incazza davvero. La prossima volta che associate Amatrice da qui alla matriciana a questioni negative, scrive il Messaggero, il sindaco di Amatrice scrive a Renzi dicendo oh, basta associare alla matriciana con la criminalità in questo caso. Si distingue invece Gianni Alemanno, l'ex sindaco di Roma, fa due interviste, una a Repubblica, intervistato da Giovanna Vitale, si deve difendere dall'accusa in un'intercettazione di avere portato i soldi addirittura in valigia in Argentina. Pensate cosa risponde su Carminati, eccolo qui, pensavo fosse morto, ma ho scelto le persone sbagliate. Titolo di Repubblica, pagina 13, Giovanna Vitale intervista un Gianni Alemanno con gli occhi incavati, mani che vanno su e giù, alla ricerca di un appiglio per non affogare. Dice, mai in vita mia ho portato soldi in Argentina, la storia dell'Argentina è una colossale balla, io che vado laggiù con mio figlio le valigie piene di mazzette, dai, assurdo, di tutto mi si può accusare tranne di questo, è troppo, io non faccio parte del romanzo criminale. La mia accusa, la mia colpa, ho sottovalutato l'importanza della squadra in un compito di governo così gravoso come fare il sindaco di Roma. Ho cambiato 4 capi di gabinetto, ho fatto vari rimpasti, non ho capito che era fondamentale scegliere bene gli uomini. Ho sbagliato i collaboratori, ma è capitato pure a Veltroni con Odeven, che era il suo capo, vice capo di gabinetto, Luca Odeven. Chi mi ha deluso più di tutti? Panzironi, ex amministratore delegato di AMA, quello che mi ha sbalordito, viene dalla DC, ha un percorso moderato, eravamo amici, mi fidavo, pensarlo implicato con Buzzi e Carminati mi fa impressione. E poi sentite cosa dice di Carminati, Alemanno. Carminati che io non ho mai conosciuto, anzi, pensavo fosse morto oppure in pensione. In pensione. Che vuol dire uno come Massimo Carminati che va in pensione? Vabbè, allora quando ho scoperto invece che c'era, chiese ai miei collaboratori: ma voi avete contatti, ci parlate? E fu un coro di no. Insomma, Alemanno dice: io ho sbagliato i collaboratori. Conclude l'intervista Repubblica dicendo: abbiamo fatto tante cose, ma forse noi del centrodestra non eravamo preparati a governare Roma. E anche a Libero la sua linea è questa: ho fatto un solo errore a Roma, non cacciare tutti i compagni. Questa invece è la linea dettata a Libero, per esempio Odeven, che aveva due incarichi, vice capo di gabinetto di Veltroni e dirigente esterno del Campidoglio. Comunque sta di fatto che Roma ancora escono nuove novità. Libero dice: basta difenderlo, Renzi cacci il sindaco Marino, che racconta Libero: il comune di Roma ha ottenuto uno sconto dalla cooperativa di Salvatore Buzzi, lo conferma lo scoop di Libero, lo conferma il vice sindaco di Marino Luigi Nieri, che conferma che a ottobre il comune fece a Buzzi un maxi sconto sull'affitto. Ed eccolo qui, Libero accusa Marino come Scaiola: a sua insaputa il comune fa un maxi sconto sull'affitto a una struttura per Salvatore Buzzi, poi implicato in questa vicenda. C'è anche da dire che Libero attacca anche la onorevole del PD Micaela Campana, che è la compagna di un assessore di Marino che si è dimesso, coinvolto in questa vicenda. Ebbene, Campana stonata le bugie sugli SMS. Ecco, lei che mandò un SMS a Buzzi concluso con un bacio grande capo. Buzzi chiedeva a lei di fare un'interrogazione parlamentare. La Campana si è difesa in un'intervista a Repubblica un paio di giorni fa dicendo: quello che conta è che io quella interrogazione non la feci, quindi dissi di no. In realtà, ricostruisce Libero, le carte dei PM riportano un messaggino del suo assistente che smentisce: non è vero che non presentò l'interrogazione parlamentare, la presentò, ma l'ufficio della Camera rigettò l'interrogazione perché è considerata non congrua, basata cioè solo su articoli di giornali. Quindi Libero dice: altro che, la presentò l'interrogazione, ma fu non considerata congrua. Ci sono anche altri articoli, purtroppo c'è anche uno che riguarda un nostro collega Lirio Abbate dell'Espresso, da anni sotto scorta, che scrisse un articolo dedicato a Carminati, uno dei quattro re di Roma, sull'Espresso, un contenuto che non piacque a Carminati, che intercettato dice: mi ha accusato di spaccio di droga. Sentite come parla Carminati: finché mi dicono che sono re di Roma mi sta bene, finché mi accusano di omicidi ok, ma io con la droga non c'entro, appena incontro quel cronista gli fratturo la faccia. Non si riferiva a Mauro Meazza, ma a Lirio Abbate dell'Espresso. Caro Mauro, come stai? Buongiorno, bene, caro Alessandro, bene. Buongiorno a tutti. Sì, vedo che sempre mi associ al romanzo criminale romano, ecco, volentieri. Ma ecco, di sti giorni non è difficile. No, ma pensavo mi chiamassi in causa quando parlavi dei 6 miliardi, della legge di stabilità. Invece sempre per chitarra, vabbè. No, ti volevo dire che sul Sole 24 Ore di oggi, oltre naturalmente alla lettura del buon andamento del BTP, nonostante l'ennesimo declassamento che ci hanno ammannito da Standard & Poor's, però insomma i tassi hanno tenuto, sono andati all'1,94, quindi bene. Maximilian Cellino ti spiega bene a pagina 3 del Sole 24 Ore stanno andando le cose. E poi sui 6 miliardi, caro mio, intanto comincia a tirar fuori 2 euro dal taschina, e poi sappi che si pensa a correzioni nella legge di stabilità, e dove se no torna un'ipotesi di andare a mettere delle penalità sulle pensioni alte. Il dice: quanto alte? Bah, per adesso si ragiona sui 3.500 euro, cioè 7 volte il minimo. Comunque, Davide Colombo e Marco Rogari, tutti i particolari in cronaca e non nelle pagine di Norme e Tributi, caro mio, dove invece trovi, come abitualmente tutti i martedì, la pagina sul condominio. Ti volevo anche dire, guarda, che la Svizzera ha detto che lo fanno l'accordo, quindi il resto dei 2 euro che non hai in tasca, ma che ti potrebbe essere caduto oltre confine, potresti agevolmente riportarlo. C'è anche adesso la voluntary disclosure approvata, quindi insomma facci un pensierino, perché magari questi 6 miliardi qualcosina se lo metti tu e ci aiuti un po' tutti quanti. Sono scivolati oltre i confini, come schettino. Ma ti sono caduti dalla tasca, sono cose che possono succedere. Brutte notizie per i bancari, perché si sono proprio interrotte le relazioni sindacali, sai che questo contratto noi ne riferiamo sempre. No, questo contratto continua ad andare in salita e ne parliamo appunto anche oggi sul Sole 24 Ore, purtroppo non con buone notizie. Non si farà, non so se è una buona notizia o meno, comunque pare che non si faccia proprio la Tobin Tax europea, cioè il prelievo sulle transazioni finanziarie. Non c'è l'accordo, quindi ne parleremo nel 2015, quando noi avremo messo probabilmente i 6 miliardi o quanti ne vorranno, non lo so, insomma, quando avremo finito i nostri compiti. Invece volevo dire, ma bel cambio d'allenatore che avete fatto. Ah, sì. Beh, non è che voi con quello di prima. No, però insomma, però va bene, ma mi era venuto in mente questa cosa così d'improvviso, chissà perché. Ma questo lo dici perché il campionato io non ho seguito nulla. È sospeso, ovviamente. No, stavo. Esatto, è sospeso. No, seguivo in invece. In vista della ripresa del campionato. Sai che io sono molto appassionato di Formula 1. C'è anche oggi in finanza, infatti, una notizia sulla Audi che potrebbe debuttare in Formula 1. Ci stanno lavorando. Quindi, vedi, ci sono degli sport che possono dare delle soddisfazioni, caro mio, ti consiglio di fare lo stesso. Non so, la pallavolo, altri il golf, qualsiasi sport che possa essere, come dire, lontano in questo momento dalla scaletta del calcio. È tutto per oggi? È tutto. Va bene, traffico. Alessandro Milan, il cavaliere dell'informazione. Wow, e allora intanto Salvini va a Mosca e questo l'abbiamo accertato. Ora racconta anche Repubblica: mi aspetto un finanziamento da parte di Putin. Sapete che Putin ha finanziato anche Marine Le Pen, e quindi Salvini ha avuto questa svolta che viene definita da Il Fatto Quotidiano da compagno S, il compagno S Salvini. Invece il Movimento 5 Stelle continua ed è alle prese con dissidenti, non dissidenti, queste divisioni interne. La notizia è del sindaco di Livorno Nogarin, che conquista un'intera pagina, pensate, sul Corriere della Sera per dire: gela i dissidenti, io sto con Grillo. Non è andato alla kermesse organizzata dal sindaco di Parma, Pizzarotti a Parma, io sto con Grillo. E c'è anche chi, come il collaboratore factotum e autista di Beppe Grillo, Walter Vezzoli, che su Facebook risponde così ai dissidenti: Parma, datevi fuoco. Ecco, questo è il clima. Ma vabbè, insomma, politica politicante, politica chiacchierata sui giornali. Vogliamo andare all'estero. Oggi c'è un rapporto che verrà pubblicato e che sta suscitando già preventivamente molte polemiche. È un rapporto, come scrive il Corriere, su torture della CIA. È un rapporto che fa paura. Tanto che racconta Massimo Gaggi a pagina 16 del Corriere della Sera, oggi verrà appunto pubblicato il dossier sugli interrogatori dei terroristi di Al-Qaeda e preventivamente, per non rischiare ritorsioni, sono state chiuse sedi diplomatiche. Unità militari americane sono state messe in stato di massima allerta in tutto il mondo, soprattutto nei paesi più esposti al terrorismo. 6.000 Marines sono stati mobilitati, anche Sigonella in allarme. Tutto perché siamo alla vigilia della pubblicazione del rapporto del Senato sull'uso di metodi non convenzionali, cioè forme di tortura, in alcuni interrogatori della CIA dopo le stragi dell'11 settembre. Una volta insediatosi alla Casa Bianca, infatti, Barack Obama chiese all'intelligence di non usare più alcune tecniche come quella del waterboarding, cioè l'annegamento simulato, ti mettono un cappuccio e ti buttano dell'acqua sulla faccia con la sensazione che hai di annegare, e altre tecniche proibite per estorcere confessioni nell'interrogatorio di sospetti terroristi, ma non denunciò Obama l'operato del suo predecessore né aprì inchieste. Ora però è stata fatta questa indagine, sono 6.300 pagine, una sintesi di 480 pagine dovrebbe essere resa nota oggi, si chiede che venga in qualche modo con pressioni alla senatrice democratica Dianne Feinstein, che ha curato questo rapporto, di non pubblicarlo perché si temono delle ritorsioni dopo che verranno svelati alcuni particolari di questo rapporto. Anche il Fatto Quotidiano dedica una pagina a questo: le torture della CIA, le bugie alla Casa Bianca. Oggi il Senato pubblica un rapporto sulle tecniche usate per far parlare i prigionieri per terrorismo. Washington teme la rabbia di alcuni paesi, soprattutto i paesi arabi. Rimango sul Fatto Quotidiano, dove c'è una pagina dedicata all'amianto sommerso, così titolo a pagina 15. Sapete che di recente ci sono state le sentenze sulla vicenda Eternit e soprattutto quindi la vicenda in Piemonte, ma racconta il fatto con Veronica Tomassini: la bomba orologeria minaccia la Sicilia. Nell'isola non c'è una mappatura dei siti contaminati, non ci sono statistiche sulle malattie, ma solo all'Eternit di Siracusa nei petrolchimici sono passati migliaia di lavoratori. E allora questa pagina interessante di cronaca racconta il fatto: a Siracusa i morti d'amianto sono rimasti fuori dal processo di Torino. I congiunti sopravvissuti accettarono infatti una transazione proposta dai legali del magnate svizzero responsabile della Eternit nel 2008. Non volevano altre rogne. Accettarono terzi per conto dei 200 morti più i vivi, un totale di 600 persone che si arresero in fondo al patto, rinunciare a ogni rivendicazione in aula giudiziaria in cambio di un risarcimento pari a 8.750.000 euro. E ci si chiede quanti sono però i morti d'amianto in Sicilia, dove non esiste una mappatura, dopo che c'è stata la cancellazione della condanna in Piemonte, a questo punto anche i morti siracusani hanno fatto un ricorso alla Corte europea. È interessante questa pagina che trovate sul Fatto Quotidiano, pagina 15. Mentre vi segnalo pagina 18 del giornale, ma anche l'articolo inizia in prima pagina: 1.000 miliardi di shopping, questa è la vera forza della lobby gay. È stato calcolato, racconta Marzio Mian, quello che è il valore dell'economia arcobaleno, la radiografia di una clientela considerata d'oro. Secondo le statistiche americane, gli omosessuali hanno un potere d'acquisto molto superiore agli etero e così è gara tra le aziende per compiacerli. Prima pagina del giornale, poi continua a pagina 18 questa interessante inchiesta di quanto vale lo shopping per il cosiddetto shopping arcobaleno da parte degli omosessuali. 1.000 miliardi. Questa è la cifra. Ma siamo al momento conclusivo. La carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, mezza pagina, niente. Il Corriere della Sera devono avere qualcosa con William e Kate. Eccolo qui, mezza pagina. William e Kate, due inglesi a New York, con tanto di foto, incontrano Obama, incontrano Hillary, incontrano, pensate, il re del rap. Ma chi se ne frega?